Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Borse di nuove difficoltà dopo i dati cinesi, ma di economia abbiamo parlato ieri. La debolezza in arrivo da Pechino preoccupa, però resto del parere che la Fed, come dicevo ieri, dovrebbe stringere a settembre, dare un segnale di leadership, di fermezza. Ma passiamo all'altro grande argomento estivo che vi avevo anticipato. Beh, l'estate americana è stata dominata dall'imprevedibile Donald Trump. Lo riconosce anche Bill Clinton. L'ho incontrato, ho avuto l'occasione di incontrarlo, un'occasione unica, devo dire. Era un incontro ristretto dopo la prima di un film di cui vi parlerò fra poco, ma era affollato di celebrità leggendarie: Paul McCartney, Bruce Springsteen, Bruce Willis, Bill Murray, Bon Jovi, Jimmy Buffett, Rudy Giuliani, che è un politico ma è a sua volta una celebrità. Ecco, erano tutti lì in questa serata di qualche giorno fa a godersi agli Hamptons quest'ultimo squarcio estivo, perché qui ancora estate, l'estate si chiuderà formalmente, diciamo, questo fine settimana con il Labor Day, lunedì 7 settembre. He has been, believe it or not, uncommonly nice to Hillary and me. He thought Hillary was a good senator for New York after 9/11. Right. And he's one of the many Republicans who supported our foundation. Ho cercato di focalizzare la mia chiacchierata con Clinton, ma poi anche con Giuliani, anzi li ho messi insieme, ho organizzato una specie di piccolo dibattito fra i due su Trump, e Clinton, devo dire, è molto esplicito. Mi dice che sarebbe un errore sottovalutare Trump. Intanto dice naturalmente che lui ha avuto sempre un buon rapporto con Trump, hanno giocato a golf insieme, Trump è stato anche un sostenitore della sua fondazione, però dà una valutazione politica di quello che sta succedendo e ci ha trovato la chiave per stimolare il nervo scoperto in una buona parte dell'opinione pubblica americana. Parla chiaro, parla in modo diretto e pone per noi democratici un problema non immediato ma molto importante, il suo effetto traino, perché potrebbe essere molto molto forte. Come vi dicevo, poi coinvolto Rudy Giuliani, dice di essere d'accordo con Clinton e dice che Trump, insomma, è qualcosa di più di un semplice fenomeno mediatico. Non basta la qualità dell'intrattenitore per avere successo in politica, ci vuole anche un pubblico pronto ad ascoltarti, e lui l'ha trovato. Secondo Giuliani, Trump alla fine non ce la farà. Secondo Clinton, potrebbe farcela. Come sappiamo, nelle primarie tutto è possibile, le cose cambiano rapidamente. Il mio quadro di fondo però resta invariato, mi dice Clinton. Credo che alla fine fra i repubblicani prevarrà Bush. Gli chiedo poi di Joe Biden. E Clinton, devo dire, un po' sognone, molto sul piano formale impeccabile, assolutamente impeccabile. Dice: ma assolutamente che Biden faccia quello che vuole, se vuole entrare che entri. Io credo però che sia stato sotto forti pressioni dal punto di vista emotivo. Ricorderete che Biden ha perso il figlio appena pochi mesi fa, dice comunque I love the man, mi ha detto, I love the man, proprio sono molto vicino, amo quest'uomo, per cui qualunque cosa farà andrà benissimo per noi, ma come dire, per noi non cambierà nulla. Ecco, devo dire anche un messaggio abbastanza letto tra le righe, ma insomma questo puntare sull'aspetto emotivo è come dire Biden in questo momento non è completamente razionale, completamente lucido. Devo dire che c'è stato anche un attacco di Biden a Clinton, anzi ai Clinton, perché Hillary ha dato un'intervista nel giorno del funerale del figlio di Biden, e quindi Biden si è molto infuriato, ha detto che cercavano di sfruttare politicamente questo evento per lui tristissimo. Qual era l'occasione per questa raccolta di grandi celebrità? Beh, è l'anteprima di un film con Bill Murray, perché c'era appunto anche Bill Murray, c'erano un po' tutte queste grandi star, e il film è Rock the Casbah. Rebel, rebel, you will play in front of 2,000 horny soldiers. I'm gonna hurl. Oh my god. I'm sorry, but I can't tell if you're vomiting or laughing. Ecco, il film uscirà nelle sale americane il 23 ottobre, quindi questa era una vera anteprima. Bill Murray, Bruce Willis, Kate Hudson, diretto da Barry Levinson, è un film leggero, simpatico, narra di un agente musicale squattrinato, sfaccendato a Los Angeles, che poi è Bill Murray, che si reca in Afghanistan per portare una sua amica cliente in un concerto per i militari americani a Kabul. Tra mille avventure scopre una talentuosa, affascinante ragazza pashtun dalla voce bellissima che cerca di lanciare di nuovo tra mille avventure a Kabul. Ecco, ed è per questo che c'era questo affollamento di star l'altra sera, perché il film con Bill Murray, Bruce Willis, e c'erano entrambi, e soprattutto invitava Jimmy Buffett, che è un idolo, un grande cantante americano. Ma come vi ho anticipato, è stata anche una indigestione di celebrità, e ad alcune di loro ho cercato di chiedere: ma cosa pensate di Trump? Per esempio a questo signore. Ecco, Springsteen, devo dire, ha reagito in modo molto timido alla domanda su Trump, non mi ha voluto rispondere, però mi ha raccontato che si sta divertendo molto. La figlia aveva avuto una copertina di un magazine, Beach Magazine, e dunque era qui per passare un po' di giorni con lei. E poi, la grande chiacchierata con una leggenda, non con un idolo, cioè con Paul McCartney. And the cover story, you know that the cover where we look stretched, the photo stretched. That was the kind of thing would happen then, which we were all very into, that kind of random little exciting thing that would happen. The photographer was Bob Freeman, and he'd taken some pictures around at John's house in Weybridge, and we just had our new gear on, the Polar X, and we did straight mugshots. Four of us all posing. Ecco, anche Paul McCartney non vuole parlare di politica. Gli chiedo però qual è il suo album preferito. Nicchia un pochino, poi alla fine dice Rubber Soul, che è un album che fu anche un omaggio all'America, perché i Beatles erano appena tornati dal tour estivo americano dell'estate del 65, pensate 50 anni fa, e quando poi si misero al lavoro a Londra. Da Michelle a Girls, My Life, Drive My Car, Norwegian Girls, si trovano sparsi richiami al soul afroamericano, a Bob Dylan, ai Birds, persino ai Beach Boys. E McCartney mi ricorda che l'estate di 50 anni fa era un'estate difficile, perché l'America intensificava i bombardamenti in Vietnam, era l'estate che ha visto la morte di Winston Churchill, riportava le grandi emozioni della Seconda Guerra Mondiale, i grandi lutti, le grandi tragedie. In Algeria veniva deposto Boumediene, la guerra fredda era al suo apice, in America c'erano i tragici incidenti di Selma, le battaglie per i diritti civili. E oggi, devo dire, estate americana del 2015, il mondo è ancora più complesso, difficile, brutale di quanto non fosse allora. E devo dire, pensando alla spensieratezza di questa serata al Blue Parrot, poi alla realtà del giorno per giorno che invece attende l'America dopo il 7 settembre, Labor Day, per la tranquillità di tutti credo ci sia soltanto da augurarsi una cosa, e cioè che non sia l'ingombrante, incongruo e dirompente Donald Trump a vincere la Casa Bianca del 2016. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Non posso che dedicarla a Paul McCartney, al suo album preferito. Ho scelto una canzone da Rubber Soul, e una canzone che nel testo mostra una evoluzione da parte dei Beatles, e c'è maggiore maturità, non sono più dei ragazzini, sono degli uomini. La canzone è Drive My Car dei Beatles. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.